Merci Non, François. c'est Et moi. Merci. excusez-moi si j'ai étudié le français mieux, Ah, mais pas de Next problème. Yes. Stiamo fonda... Stiamo, almeno, dichiarando il manifesto di Radiohead. Sulla base di quello che abbiamo sperimentato per adesso. Il manifesto è una cosa che si fa piano piano andando. Cioè, ogni tanto bisogna farlo, un manifesto. Ogni Cioè, tanto... manifesto come risultato di esperienza, Esatto. come un accumulo di esperienza. Esatto. Come una, so, una proposta scientifica, insomma. Innanzitutto delle persone che la tengono viva. Quelle lì diventano i personaggi di Radiohead e di Neff, no? Diventano i personaggi. In Radiohead ci intervistiamo noi stessi e sono sti personaggi qua che sono quelli che tengono viva Radiohead. E che e quindi piano piano si delineano sempre di più come personaggi, si arricchiscono, si spessiscono, si, no? Si fanno conoscere, no, è normale, è così, insomma, parlano. E quindi possono diventare strumento utile nel momento in cui ti relazioni ad altro, o a un paesaggio, o a delle altre persone, no? Perché, perché questo paesaggio e queste altre persone, bene o male, sono viste dai loro, attraverso il loro sguardo, i loro occhi, dal loro punto di vista, no? J'ai commencé par faire de la musique classique au trombone et ensuite avec le trombone j'ai fait du jazz. Ensuite j'ai fait des rencontres en allant sur Paris, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la musique très improvisée comme on fait un peu ce soir. Donc j'ai continué comme ça et en parallèle à un moment je me suis mis à apprendre le vibraphone. Et pendant quelques années j'ai joué du trombone et du vibraphone, du trombone et du vibraphone. Et petit à petit, le vibraphone a pris le plus d'importance. Et maintenant, je continue que le vibraphone. J'ai toujours le trombone, mais je n'en joue plus, en tout cas pour l'instant. Voilà. Et mon chemin sur le vibraphone est plutôt un chemin lié à l'improvisation. Vraiment à l'improvisation au sens très large. Parce que je n'ai pas une formation classique sur le vibraphone. E cosa facevamo che c'era Martinez? Cosa c'era? Martinez! Ditemi quella! Insieme era un coro di italiani che cercano di è vero, è vero. Ma no, perché siccome non si rischia di non capire di non capirsi assolutamente quando avevi un barlume di comprensione, ci tenevi a far capire che esatto, stavi capendo certo, qualcosa. Certo. No, pure a me capitava che non capivo, ma facevo. Stavo tranquillo io. Esatto. Cioè, come... per rendere tranquilla la conversazione. Sì, no, anche per tranquillizzare me stesso a dirmi, vabbè, non hai capito. Non hai capito un cazzo, ma vediamo se adesso va meglio. Tipo, vuoi sapere? Arrive après la musique, c'est-à-dire que yes. Je pense la musique, j'ai envie de faire des choses au niveau de la musique, où j'entends des choses que j'ai envie de faire, et parfois j'ai une limite, et la limite qui est la technique. Radio Ned vuole dare voce ai musicisti o a... è quello che mi chiedo. La più crudele delle malattie. Non v'è rimedio che nella... Non v'è rimedio che ne lenisca i tormenti. I tormenti. Sì, buonanotte. Dai, ripartiamo. L'arte è la più crudele delle malattie. Non v'è rimedio che ne lenisca i tormenti. I dubbi, le angosce, i turgori inesplosi del cervello. Et je pense que c'est pour moi c'est important d'aborder un instrument dans ce sens-là, c'est-à-dire de pas travailler en premier la technique pour faire la musique. Mais essayer de faire la musique qu'on a envie de faire, qu'on entend ou qui nous plaît et qu'on veut faire, et à partir de la musique que l'on a envie de faire, travailler la technique. È la piattaforma. Ecco. Sì. Non ce l'ha. Non ce l'ha. E soprattutto è in... Perché se vi ricordate come era iniziato Radio Ned all'inizio, doveva essere in diretta, streaming. E c'era la musica estemporanea che girava 24 ore su 24. Dopo quel ragazzo non si è più fatto. È morto tutto. È morto. Questo mi fa pensare che Radio Ned parla di se stessa più che di altro. Diciamo che vive di altro, ma parla di se stessa. Cioè, vive attraverso altro, vive se stessa attraverso altro. È un mezzo, certo. You make up some action, some sign, other sign. Other sign. You discover other sign. Est-ce que j'ai inventé des signes, c'est ça? Non. Non? Non, non. Never? Non. Non. Never? Mais non, est-ce que... Non, par contre, ce qui m'est arrivé de faire et ce qui m'arrive encore de faire, c'est que... quand je travaille le sound painting avec des enfants, je n'explique pas tout ce que j'ai expliqué quand on a travaillé l'autre fois, parce que c'est trop compliqué pour des enfants. Ouais. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que les enfants, à partir d'un signe, des fois, ils modifient un peu à leur façon. Ils changent le signe. Comment que tu as mis vraiment pas beaucoup de spritz aujourd'hui dans le bicchiere. Tu as mis metà bicchiere. Forse era quello lo scazzo. Questo è uno scherzo grosso. È vero. Infatti l'ho quasi finito già. E insomma... Thank you. senso di questa direzione? Perché queste due cose prendono questa direzione? Secondo me ha un senso. Ecco. Proprio perché anche noi allo stesso tempo, cioè quelli che ci sono dentro, si stupiscono delle sfaccettature che sono all'interno, no? Anzi, sono curiosi di quello che è una succedere. Continua alimentare la curiosità. Io disegno, per esempio, ecco. E mentre schizzo mi piace avere la musica da ascoltare. Ecco. Più che schizzare, quando coloro, quando faccio il disegno perché devo inventare qualcosa, no. Ma mentre coloro sì, la musica mi piace. Ecco, quindi c'hai due fasi. La fase, diciamo, dove richiede maggiore concentrazione, pensiero, proprio elaborazione del pensiero, lì hai bisogno di silenzio. Di silenzio, esatto. Okay. Non ho bisogno di, cioè non devo avere distrazioni. Esatto. E invece quando coloro, mi piace avere la musica. Perché magari è la musica a suggerire il colore. Mm. Appunto, come dicevo, ecco. Improvvisazione è colore. Se appunto mi capita qualcosa che ha lo stesso colore, allora non mi aiuta. Cerco qualcos'altro che sia un po' più appunto colorato. Quindi Radiohead si occupa di curiosità viva, però di curiosità che si occupa prima di tutto di musica, forse, e si occupa di curiosità riguardo a un tempo e uno spazio musicale inserito in un contesto di monteverdiano, di personaggi che parlano di altri spazi, altri tempi, e confondono e infondono e affondano e diffondono la radio. Applauso. Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, te ci sta, bravo, te ci sta, and we now we it's my pleasure we construct the episode, okay, and we send you send it to you the result the result. I said that but we hope to have dinner tonight together. Let's see. Okay, well, yeah we hope it. Okay. Thank you.